il potere, l'America vuol il controllo. Quella che mangia già. Voglion più voti e soldi, voglion più tassi e pizzi, voglion più armi. Gente ipocrita. Fanno più guerre e danni, fanno più droghe e intrugli, fanno più inganni. Non cercare di arricchirti, no. Non cercare di rubare, no. Se sei sì per amare, per lottare. Dicono ciò che pensano e non fanno ciò che dicono. Non cercare di arricchirti, no. Non cercare di rubare, no. Se sei per amare, per lottare. Soffre il tuo profeta, oh yeah.